Noi siamo un gruppo di insegnanti facenti parte del mondo della formazione, vario, che fa parte dell'Assemblea di Una di Meno e che ha sentito la necessità di ragionare in maniera un po' più approfondita sulle questioni appunto dell'educazione e della scuola. C'è da dire che la scuola e l'educazione in Una di Meno fanno parte insomma di questo percorso da subito, perché quando è stato scritto il piano nazionale contro la violenza maschile sulle donne, c'era un tavolo che era uno dei tavoli più nutriti dal punto di vista numerico, che era appunto il tavolo educazione, che è arrivato a scrivere poi il documento politico che si trova all'interno del piano. Ragionare però anche a livello territoriale ci permette di rapportare tutte quelle questioni che si riscontrano, diciamo, a livello nazionale, come poi dopo vengono declinate all'interno dei territori. Basta pensare per esempio agli attacchi dei cosiddetti sedicenti no gender che nel territorio bolognese si sono fatti sentire in questi anni, e poi permette anche di produrre degli strumenti pratici come quello dell'opuscolo che presenteremo domani. Ecco, allora infatti ti chiederei di lanciarci un pochino proprio la giornata di domani, questa assemblea pubblica e anche in che cosa consiste questo opuscolo, questo vademecum. Noi in realtà inizialmente abbiamo iniziato a chiamarlo in maniera abbastanza impropria vademecum, ma in realtà si tratta di un ragionamento in cui siamo partiti dal mettere in comune delle esperienze che da insegnanti, ma in realtà anche abbiamo messo dentro delle esperienze che i nostri stessi alunni, le nostre stesse alunne vivono a scuola, perché diciamo che le discriminazioni sessiste a scuola uniscono due ruoli così diversi come quelli dell'insegnante e quelli delle studentesse e degli studenti. Per cui siamo partite appunto parlando delle situazioni che si possono verificare a scuola a tutti i livelli, quindi le discriminazioni fra compagni, le discriminazioni fra colleghi e colleghe, le discriminazioni più dal punto di vista istituzionale, della dirigenza o di gruppi di genitori che magari vogliono interferire sulla didattica, per ragionare sull'importanza che la scuola ha ai percorsi educativi nello smantellamento degli stereotipi di genere, per appunto arrivare a creare una cultura che non permetta episodi di violenza sulle donne, che sono solamente la punta dell'iceberg di un sistema che è fatto alla base di ben altro. La nostra idea è appunto quello di anche raccogliere tutte queste testimonianze da queste domande stimolo che si trovano all'interno dell'opuscolo di chi la scuola la vive tutti i giorni. Perché da una parte appunto pensiamo che la scuola sia il luogo in cui, visto che è uno spaccato della società, in certi casi ancora della società di massa, chiamiamola così, è il luogo dove si ripropongono questo tipo di discriminazioni gravi e meno gravi, ma allo stesso tempo è anche uno degli ultimi baluardi che è in grado di diffondere e costruire veramente in maniera attiva una cultura liberata dagli stereotipi di genere e quindi anche dal sessismo. Perciò abbiamo cercato di tenere quest'ottica sia appunto di critica, ma anche di costruzione di percorsi, di tanti percorsi che già ci sono e desideriamo metterli in rete. Ed è anche per questo quindi che ci teniamo tantissimo all'assemblea che verrà fatta domani in Montagnola alle ore 17:30, fra insegnanti, persone che lavorano nel mondo della formazione, ma anche studentesse di tutti i gradi. Quello che ci preme tanto è innanzitutto costruire lo sciopero dell'8 marzo, perché c'è bisogno di una presa di parola forte che si inserisca all'interno di un discorso che è un discorso globale, perché lo sciopero è appunto uno sciopero globale, ma allo stesso tempo che riesca a tenere dentro delle questioni molto cogenti, per cui anche una forte opposizione a quella che è la deriva veramente autoritaria degli ultimi mesi, che non nasce di certo con il cosiddetto governo giallo-verde, ma che ha preso veramente degli scenari inquietanti ultimamente. Basti pensare al decreto sicurezza, la proposta di legge Fillon e diciamo al clima di intolleranza e di marginalizzazione che è sempre più forte. Quello che ci preme moltissimo è di non tenere separato il discorso dell'antisessismo con l'antirazzismo, perché pensiamo appunto che non sia un caso che questo governo, ma diciamo forse anche la fine di quello precedenti, sia stato solerte nei suoi esordi a andare a colpire queste due categorie, diciamo queste macro categorie di migranti e donne. donne, per cui noi tentiamo di tenere uniti i discorsi per, e portare una lotta comune in piazza l'8 marzo. Ecco, ti faccio un'ultima domanda partendo proprio da una delle cose che dite all'interno di questo testo che presenterete nell'assemblea pubblica. Voi da una parte sottolineate come sia necessario fare rete anche per rispondere a quelle reti di genitori piuttosto che accusano di promuovere la teoria gender nelle scuole, però dall'altra poi dite anche non si devono fare solo dei corsi a parte, diciamo, in realtà dovrebbe essere qualcosa di più pervasivo il fatto di insegnare il rispetto alle differenze e di non fare discriminazioni. Sì, assolutamente, come è stato scritto appunto nel piano nazionale di Non Una Di Meno ormai 2 anni fa, la didattica cosiddetta di educazione alle differenze non può essere delegata a dei progetti pomeridiani di una manciata di ore, ma neanche a dei percorsi didattici, ma deve essere trasversale a tutte le materie, a tutti i gradi scolastici, ma in tutti i livelli e delle diverse figure che operano all'interno della comunità scolastica, perché è assolutamente, come diciamo, una postura pedagogica, perché le discriminazioni o gli stereotipi possono essere riprodotte anche in maniera molto indiretta, per cui non si può demandare al corso sul, appunto, il divario fra, che ne so, lo stipendio fra uomini e donne, quando poi magari abbiamo degli interi programmi scolastici che omettono totalmente, per esempio, la storia delle donne o il fatto che la presenza delle donne come soggetti attivi all'interno della storia è stata esclusa ed è fuoriuscita dal cosiddetto canone. Questo è solamente un esempio, quindi non si può, appunto, proprio in ottica femminista, il femminismo lo dice da sempre questo, non si può pensare di agire solamente attraverso queste piccole pillole, ma è una cosa che va fatta a 360 gradi.